Beh, senza soluzione di continuità, questa seconda parte con Matthew Bauer, Richard Youngs, per quanto riguarda appunto una delle storiche sigle, ma più che sigle, insomma, due storici personaggi legati, insomma, alle musiche psych-out, nel vero senso della parola, nel senso che sono riusciti tramite divagazioni per quanto riguarda Richard Youngs, ma anche legate a un certo modo di intendere le musiche folk, qualche cosa che comunque spinge poi Noiser allucinato come Youngs, a compiere anche appunto operazioni legate quasi a una sorta di così di noise acustico, potremmo dire, se non proprio in alcuni momenti psycho folk. E invece per quanto riguarda Matthew Bauer passa invece per delle psichedelie piene di noise, veramente school flower. Abbiamo sentito senza soluzione appunto di continuità Matthew Bauer, Richard Youngs, Realms, e poi appunto school flower da Argon, sempre progetto tra l'altro di Matthew Bauer. Beh, qua veramente una gang di folli psichedelici in libertà, come dire, aprire veramente le gabbie e far uscire appunto tutto quello che si può immaginare come suono deflagrante, psichedelia portata a una sorta di estremo, quindi che fuoriesce, ci porta verso un noise che veramente non ha più ostacoli formali, ecco, anzi della deformazione fa proprio una sua caratteristica. E tra l'altro in questo Argon 4, tratto da un storico lavoro per quanto riguarda appunto il noise, tutto il noise storico in questo senso, contestualizzandolo, e anche se poi insomma è un contesto che ha dato veramente tanti natali a noise poi successivo, alle forme più libere comunque di noise, se pensiamo insomma a Dead Sea, a un'altra formazione che tra l'altro troveremo nei pressi insomma di 451 delle prossime volte, oppure di formazioni che metteremo insomma alla conclusione di questa seconda ora. School Flower hanno appunto dentro Argon 4 anche Tim Hawkinson, quindi in questo senso qua storico Eric O, oltre che vari progetti, ricordiamo ad esempio i God, veramente tra quello che sarà poi math rock, esasperazioni jazzistiche, rumorismo, hardcore, veramente di tutto di più, un po' come anche School Flower, seppur di matrice più sicuramente rumorista. La prima etichetta fu la Black Flag, regata a Ramle, da cui esce tra l'altro anche una collaborazione con Maroteo Teardo, quindi anche degli incroci che sono venuti a creare. Certo, stiamo parlando di un Maroteo Teardo di 35 anni fa, poi insomma divenuto famoso per colonne sonore, cioè collaborazioni ovviamente, e comunque se pensiamo appunto alla prima, anzi alla Black Flag come etichetta, Broken Flag scusate, e come etichetta Black Flag è un'altra storia legata all'hardcore. Beh, pensiamo a suoni che così portano forme di noise cavalcate già da alcune situazioni tra impro e musica concreta, anche lì forse forme di psichedelia che abbiamo trattato in qualche puntata, insomma legate più all'impro, e poi quello che è appunto un rumore che alla fine degli anni Ottanta si era anche come dire svezzato attraverso tanta brutalità industrial, che in certo qual modo insomma vedeva anche personaggi poi darsi non trovare poi una canalizzazione, o forse una canalizzazione insomma pseudotecno, mentre altri appunto invece hanno trovato una dialettica strutturale o destrutturate nel noise più appunto rumorista, in questo caso insieme a Tim Hockinson dentro Argon, Ford, Schoolflower, c'era anche Philip Best, altro nome incredibile legato a uno dei gruppi insomma che così soltanto il nome spaventa, White House, ovvero Power Electronics, il lato veramente più deragliante del noise industriale, e poi dentro Consumer Electronics, insomma, anzi sul progetto, e varie insomma follie cacofoniche potremmo dire, e dentro appunto un progetto che si voleva insomma travalicante, ecco, con confini anche legate appunto a cose già fatte anche in termini appunto di sperimentazioni. E in effetti Schoolflower veramente vanno oltre ogni limite, come dire. Poi ovviamente la dialettica sonora che c'è anche dentro le musiche noise ci portano a tutt'oggi poi a leggere in maniera appunto dialettica, come fase insomma di passaggio per ulteriori sperimentazioni, ma in questo caso insomma è un linguaggio aperto, ci mancherebbe se non staremmo parlando di sperimentazione, e non ci sarebbero personaggi come Tim Hockinson appunto proveniente da Harry Coe, che non sto neanche insomma a presentare, ecco. Invece ho detto qualcosa insomma su God, che insomma è stato un progetto dove c'era appunto dentro anche Tim Hockinson, oltre a vari guastatori. E se dovessimo insomma fare un ponte, un po' come facciamo spesso da queste parti con i nostri giorni, Bruxa Maria, progetto già nome porta con sé insomma tutto il delirio che potete immaginare dentro, un delirio decisamente psicotico, ma anche con quelle possibilità date da strani linguaggi che vanno a incontrare tanto forme di punk viscerale, come forme di impro, come forme di, perché no, anche parlare di art rock, con appunto prima con Harry Coe non si può insomma anche riferirsi a quello, insomma, padre insomma di quella attitudine, non genere musicale assolutamente, e dentro Bruxa Maria c'è anche questo, e poi con un progetto che è condiviso con Moe, progetto sigla norvegese, anche qua strani mondi in progezzistica che si nutre di noise, una zona grigia quella di Moe, come d'altronde poi un disco come Skin Walker ci viene a riempire di suoni insieme a Bruxa Maria, suoni di attitudini perverse e pervertite nel loro appunto diventare creative in questo senso, forse termini insomma che sembrerebbero lontani da certe musiche che hanno un effetto, insomma, non come dire, traumatico, ecco, per molti aspetti, ma poi in realtà appunto di grande capacità, grande possibilità appunto date alle musiche ancora di poter sperimentare linguaggi appunto linguaggi nuovi. Brooke Samarea con appunto il progetto Moe, e per questo bel disco di qualche mese fa, appunto Skinwalker, che ce l'andiamo appunto ad ascoltare. Beh, per chi non ama il noise, direi che non è proprio un ascolto di quello, di quelli semplici, insomma, per chi poi coraggiosamente, insomma, è arrivato fino alla, alla fine della, del pezzo di Brooks Maria insieme a Moe. Brooks Maria da soli fanno punk, anche se poi è difficile da dire, soprattutto da far credere questa cosa, ma tenete fede, insomma, se avrete modo di ascoltare i progetti, insomma, cioè i dischi come Brooks Maria e basta, sono fondamentalmente punk, anche se è un punk che dentro è molto molto pensato, ma non è un pensiero però concettuale, concettuoso per meglio dire, ma è pensato forse con le viscere, con i nervi, quelli di Dave Cochrane, che tra l'altro anche lui è stato un ex God, e quindi con anche quel art, no, art rock di cui accennavo prima, di Tim Hockinson, che abbiamo ascoltato con il suo sax dentro School Flower, ma che collaborava, insomma, con Phil Best, uno dei grandi guastatori delle musiche tutte, insomma, ricordando appunto la sua militanza dentro White House, il suo progetto Consumer Electronics, guastatori, musicisti che non vanno oltre, insomma, a quelle che sono anche categorie, perché no, non per forza, insomma, rinnegate o abiurate o comunque, insomma, come dire, bypassate, è così, in maniera snobistica o postmoderna, ma proprio di fatto, insomma, le sperimentazioni che portano in campo musicale ci portano e li portano, insomma, veramente a una sorta di verifica continua, una verifica incerta, ecco, citando tra l'altro non musiche sperimentali, ma immagini sperimentali, film sperimentali, e Blob, ovviamente, insomma, Blob che prende tanto da verifica incerta e tanto ci dà, insomma, la possibilità anche di non definire, ma di dare un'indicazione di quello che è, appunto, così una musica che ho un rumore per qualcuno, insomma, e siamo alla strega di questo e basta. So, probabilmente anche loro hanno ragione, se non per il fatto, insomma, che già da cent'anni a questa parte si lavora sul rumore, non per niente, ma perché è un suono, insomma, che quotidianamente, insomma, attraversa le nostre vite. Noi attraversiamo, appunto, suoni che circondano, che fanno un'architettura del quotidiano inevitabilmente, insomma, legata anche a questi, o soprattutto a questi. E con Brooks Maria, appunto, c'erano Moe, Trio, norvegese, dedito all'impro. All'impro però con carature decisamente noise, anche qua una zona grigia, e soprattutto una zona grigia creata da questo Skinwalker, quando appunto un gruppo punk così fatto da musicisti che non sembrerebbero punk, jazzisti che non sembrerebbero tale per uso massiccio di rumore, di feedback, ma anche di doom metal, di tante, come dire, infernalità, ecco, musicali, che, insomma, li portano lontano, ovviamente, anche da certo impro in progetto, ma poi anche lì in realtà molto, molto dell'improvvisazione radicale nasce appunto come, come dialettica anche con il suono, suono rumore, come appunto accennavo e come più di una volta insomma sono passate cose di questo tipo appunto dentro 451 frammenti sonori. E per concludere, ve l'avevo già un po' detto, un nome storico, non storicissimo come Schoolfather per quanto riguarda insomma rumorismi defagranti o deliranti, ecco, ma non per niente, ma semplicemente perché di seconda generazione potremmo definirli così. Reynolds, Burt Reynolds, proprio l'attore è così sbeffeggiato, maniera così molto anche demenziale, c'è questo aspetto anche demenziale dentro Reynolds, che si divertono anche con forme psichedeliche, che prendono tanto dalle forme conosciute di psichedelia, e però anche qua portate verso un eccesso, sono veramente psych out nel vero senso della parola. È un incrocio nel pezzo che sentiremo adesso tra tribalità, forse un po' kraut, un po' così dementi, punk, e poi sonorità tanto noise quanto forme di space, andato space rock andata male, e appunto una attitudine così guastatrice, quella anche questa di Reynolds, anche se con appunto quella punta demenzialità che così li porta anche a essere una sorta di combo, tra l'altro argentino, di combo anche legato a suoni fantasiosi e anche meno forse meno opprimenti, seppur insomma anche qua se non vi fate opprimere veramente dalla psicosi e dalla psichiatria che colpisce Reynolds, in questo caso insomma diventano anche dei giochi, però occhio perché insomma è un gioco un po' pericoloso anche questo qua, quello di Reynolds che andiamo a ascoltare da Gonna Rabian Ranisa, con un pezzo e poi magari anche qualche minuto in chiusura di un altro pezzo che veramente rammenta la psichedelia acida, il raga, è certo raga rock, però una visione e versione decisamente anche qua portata sulle soglie, su una soglia appunto di una sorta di psicosi, non si sa quanto controllata. Max Macchia vi saluta e vi rimanda al prossimo appuntamento appunto di 451, e nel frattempo insomma come dire, stavolta questo giro vi saluto soltanto in chiave psych out. Ciao, alla prossima.